Benvenuti, ok, fai tu. Benvenuti a questo nuovo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. Come ho detto già altre volte, non mi stancherò mai di farlo. Sì, e questo episodio è che si intitola 3, 2, 1, fight! È appunto l'episodio dedicato ai sistemi di combattimento nei videogiochi. Che in realtà, cioè, 3, 2, 1, fight è uno. Cioè, di solito è solo uno, si riferisce solamente uno, però parleremo un po' in generale. Quindi, è stato per la puntata, qual era? Select Character, il mio inglese fa veramente schifo. Ok. Che è stato appunto preso dal classico, l'idea è venuta con il classico schermo di selezione personaggio in un gioco di combattimento. Anche questa frase, 3-2-1 fight, che è quella che si sente di solito all'inizio di un combattimento in uno dei classici Tekken, Street Fighter, cose del genere, appunto indica il momento in cui il combattimento vero e proprio comincia. E definiamo un attimo cosa intendiamo noi per combattimento a questo punto, no? Cosa intendiamo noi, Jacopo? Non lo so, è una domanda difficile. Allora, combattimento in realtà dipende dal gioco. Più in generale possibile, sono le regole che regolano... Cioè, non so, aspetta, generalizziamo il più possibile. In questo episodio non parleremo dell'atto solamente di combattimento attivo, cioè tu stai cercando di ammazzare qualcun altro nel gioco, un nemico. Esatto, anche perché quando ci metteremo a parlare di violenza nei videogiochi, poi quello sarà un episodio a sé stante, direi. Esatto, ma più in generale sono tutte le regole, i meccanismi, le regole e le meccaniche di gameplay che vanno intorno all'interazione con i nemici. Quindi sono sia quelle a basso livello, tipo appunto come funziona tirare un pugno a un nemico per incapacitarlo, sia ad alto livello, cioè come il giocatore viene messo nella situazione di dover gestire magari più nemici o delle guardie che fanno delle ronde. Quindi c'è, cioè, un po' tutti i livelli di come i nemici interagiscono con il giocatore e viceversa. Questo è un po'... Anche perché la meccanica del conflitto direi che non è un'idea nuova nel videogioco. In molti giochi, fin dall'inizio dei tempi, diciamo che appunto c'è questa, una delle componenti che più intrattengono anche il giocatore è l'idea appunto di combattere, di questo conflitto con un avversario, un nemico, un qualcosa che si oppone al suo obiettivo. E una delle risoluzioni più classiche di un conflitto ovviamente sono i cazzotti, no? Stavo per dire, esatto, il conflitto nasce nel 10.000 avanti Cristo quando Uga Buga si rende conto che Aga Baga. No, però è vero, è una delle cose più naturali del mondo, tra virgolette, perché l'ostacolo, cioè il avere un ostacolo davanti, avere un antagonista che ha degli obiettivi che sono o i tuoi stessi in una specie di corsa alle risorse, chiamala così, oppure sono il contrario dei tuoi, cioè sono, se tu sei un predatore, quello è una preda, quello scappa, tu devi inseguirlo. Cioè sei sempre contro qualcosa nel mondo, nella tua vita, cioè sei sempre cercando di superare qualcosa, e a volte questo qualcosa sono altre persone, cioè sono altri individui, mettiamola così. E poi, siamo sinceri, la violenza vende, voglio dire, se tutti i film... Mamma mia! Se tutti i film d'azione americani ci insegnano qualcosa, è che la violenza vende. La violenza paga! Letteralmente. È vero, però. Eh beh. Infatti, se ci pensiamo, è raro che... È una cosa che si è vista maggiormente più negli ultimi tempi, che videogiochi non violenti... come dire, appassionano il pubblico abbastanza quanto quelli violenti. Se ci pensiamo, cioè, tra i videogiochi più famosi della storia, è difficile trovarne qualcuno, cioè, non tanto perché ce ne sono anche di non violenti, ma diciamo che quelli non violenti rispetto a quelli violenti sono in un numero molto minore. Siamo a tutte quelle saghe americane di giochi sulla guerra come COD, mi sta venendo l'altro ovviamente adesso. Qual è l'opposto di COD? L'opposto di COD? Doc. No, però, cioè, la cosa è che è più difficile... Cioè, allora, tu magari pensi al tuo pubblico come maschile e adolescente e pensi, ah, allora, a questi gli piace sparare. Però la cosa del gioco è che ti mette in una situazione di fantasia dove puoi un po' esplorare delle situazioni alternative o degli scenari, tipo appunto poter sparare in faccia a una persona o poter ammazzare i demoni. Però può anche metterti in un'altra situazione di fantasia, come riuscire a pagare il mutuo sulla tua casa a Tom Nook, che comunque è una cosa poco realistica, è una cosa. A prescindere dal tipo di pubblico del genere, la violenza come concetto di base di un gioco, cioè, è per dire, è anche alla base di molti dei franchise che hanno avuto più successo, come dicevo appunto, pensiamo a tutti quelli di guerra, come COD e quell'altro che ancora non mi sta venendo, che dice, oppure come tutti i giochi che abbiamo discusso, la violenza è una parte integrante, Skyrim, Assassin's Creed, eccetera, eccetera. Ma andiamo con ordine, ci stiamo già perdendo in discussioni No, filosofiche. ma questo non era la discussione filosofica, era per dire, cioè, uno dei motivi per cui fino ai giorni, cioè fino agli ultimi, boh, 10 anni, 20 anni, c'erano tantissimi giochi violenti e pochi non violenti, secondo me è questo, cioè è perché c'era questa, diciamo, percezione del pubblico anche, non solamente di cosa è divertente, ma di cosa è sexy, tra virgolette, per il pubblico, di cosa piace. Come dicevi tu, la violenza vende, ma vende soprattutto lo stereotipo di teenager maschio americano, secondo me, non lo so, però. Ed erano anche gli stessi che li facevano, quindi vabbè. Ovviamente, è una cosa che vorrei poi tornare a parlare su una puntata magari sulla violenza dei videogiochi. Io vorrei Assolutamente. anche argomentare che, però, giusto un accenno, che secondo me è anche stato il fatto che c'è la violenza, è facile. È facile, ci può partire uno dei primi giochi che ti vengono in mente, possono venire in mente, è tu che combatti mostri o cose del genere. E forse adesso che la creatività degli sviluppatori si sta Ah, raggiungendo. tu dicevi facile nel senso di Esatto, proprio cioè di farlo. farlo, ma anche del tipo, gli sviluppatori sono diventati abbastanza bravi da trovare anche altri metodi, tra virgolette, non violenti per intrattenere una persona, perché alla fine, cioè, come appunto dicevamo, la violenza vende, la violenza interessa, quindi il combattimento tra avversari, anche se pensiamo a tutte le storie, dall'inizio dei tempi, questa cosa dell'avversario, del combattimento, della sconfitta di qualcuno è qualcosa che si sente all'inizio dei tempi. E forse appunto il fatto che i developer stanno esplorando nuove piste, nuove vie, esplorando nuove idee per lo sviluppo di videogiochi, ha creato anche questo nuovo sviluppo di videogiochi non violenti, in cui la violenza non è parte integrante del gameplay. Ma di nuovo, questo, Jacopo, mi devi fermare quando parto con No, no, questi. no, io non ti fermo perché a me piace questi discorsi, però vabbè, li lasciamo più approfonditi per un altro episodio più filosofo, etico. Per Anti mediatico. continuare, giusto per, di nuovo, per continuare la metafora, come dicevamo, del videogioco in tutte le sue parti, in questo momento abbiamo visto l'ultimo episodio, abbiamo parlato dell'inventario del giocatore, e a questo punto, quando dobbiamo affrontare queste quest di solito ci danno qualcosa da fare, tipicamente, come dicevamo, appunto, uccidere qualcuno o qualcosa. E quindi direi di partire parlando dei vari tipi di combattimento che sono esistiti durante la storia del videogioco. Sì. Allora, qua partiamo proprio dall'inizio, i primi videogiochi che erano quei simulatori testuali come Zork, che avevamo accennato la volta scorsa, lì c'era. Si poteva definire combattimento quello, perché alla fine scrivevi sulla linea di comando Beh, sì. attacca il goblin e il computer ti rispondeva il goblin è morto, quindi Sì, semplicissimo. Molto semplice. Diciamo però posso dire una cosa al riguardo su questo, che poi lo ripeterò per... No, vabbè, lo dico subito a chi sto pensando. Cioè, il fatto che tu in Pong sconfiggessi il tuo avversario, tra virgolette, usando una palla, cioè nel senso... Pong come conflitto, come sistema di combattimento, tra virgolette, è molto sportivo, nel senso che è proprio come giocare a tennis in maniera molto semplificata. Tu non stai direttamente picchiando qualcuno, non stai scrivendo su, tipo su Zork, uccidi Goblin con spada, capito? Certo. Quindi quello che tu puoi fare, cioè già solamente come posso dire, la lista di azioni che tu puoi scegliere di compiere verso un avversario, verso un nemico, definisce molto la filosofia di base, tra virgolette, e la meccanica del combattimento, perché già se tu guardi Zelda, quando sei tipo a cavallo, non ti consiglia i pulsanti per attaccare, ti consiglia i pulsanti per tipo accarezzare il cavallo. Ho fatto un esempio così, però... cioè. Se un gioco, anche solamente come consiglio, ma soprattutto come lista di cose che puoi fare, ti dà colpire con la spada piuttosto che sparare una palla a tennis, già sta dando, ha fatto una scelta lo sviluppatore, mettiamola così. Certamente. Però lì c'è anche da fare una buona distinzione tra combattimento e conflitto, perché sono due cose diverse in questo caso. Combattimento, quello che dovremmo tecnicamente discutere oggi, se non ci perdiamo in altri discorsi. No, in realtà questo discorso parla di questo, cioè nel senso... Sì, nel senso il combattimento è un modo per risolvere un conflitto. Il conflitto, esatto. Però le scelte, come diciamo prima, cioè le scelte che tu hai di risolvere un conflitto ad alto livello, ma anche a basso livello, sono già scelte che influenzano quello che è tutto il gioco, cioè tutta la percezione del gioco che ha il giocatore. Magari adesso noi ci concentreremo più su la parte a basso livello, tra virgolette, quindi proprio quando, una volta che hai scelto il combattimento, che cosa puoi fare. Però volevo fare anche una piccola parte su risoluzione del conflitto senza arrivare alle mani, mettiamola così. Certamente. E quindi dopo Zork, in cui scrivevamo attacca con la spada il Goblin, i primi sistemi di combattimento sono appunto quelli derivati da giochi come Dungeons and Dragons, come discutevamo l'altra volta, tutti i giochi di ruolo, tra virgolette, che sono stati tra i primi a nascere per il PC, per il computer dell'epoca, usavano molto questo sistema di combattimento a turni, in cui il giocatore faceva qualcosa, poi l'avversario rispondeva facendo qualcos'altro, e fino a che uno dei due non stramazzava a terra, esatto. O per meglio dire, quando i suoi HP raggiungevano lo zero. E questo sistema poi è diventato un classico dei giochi, cioè giochi di combattimento a turni esistono ancora oggi e continuano a farli. Se i primi sono stati più famosi, sono stati di sicuro Final Fantasy, sì. Poi si è evoluto con il gioco dei Pokémon, che ha dato un suo twist a tutta la faccenda. Ma poi anche giochi come Civilization, aiutami qua, mi stanno sfuggendo. Ma no, ce ne sono tantissimi. Forse Chrono Trigger, mi sembra. Non credo, però. Sì, anche Chrono Trigger, perché era tutto dei sistemi praticamente... È molto giapponese come cosa, effettivamente. È stata molto adottata dai giapponesi perché è una forma molto, secondo me, nobile, tra virgolette. Cioè, io faccio una cosa, tu fai un'altra, è tutto tattica, non c'è quasi nulla di tempismo. Cioè, non devi essere bravo. È tutto estremamente... Esatto, questo è un sistema che volge molto di più alla strategia rispetto alla rapidità di mano, più rapidità di cervello in questo caso. Però effettivamente ci sono state talmente tante evoluzioni, talmente tante variazioni, ecco la parola che cercavo, su questo sistema. C'era appunto in Final Fantasy in cui c'erano i turni, ma l'ordine dei turni dipendeva da alcune statistiche dei personaggi del giocatore, quindi uno poteva strategizzare per riuscire ad andare prima del proprio avversario, avere i combattenti che andassero in un certo ordine. Ci sono stati i Pokémon che hanno rivoluzionato un po' la cosa, in cui non tanto del combattimento a turno, ma più dello stile di combattimento, in cui non avevi una squadra di eroi con cui combattere, ma no, sto spiegando male, in cui non avevi, diciamo, un gruppo di persone che combatteva, ma era un combattimento one versus one, in cui il resto della squadra era più di supporto. Cioè era in panchina. Esatto, ti concentravi su un combattimento uno contro uno, ma il resto dei Pokémon che avevi con te poteva influenzare il tuo stile di combattimento. E questa era una cosa interessante, mentre rispetto ai Final Fantasy, dove c'era la squadra che una volta fatta agiva praticamente insieme nel combattimento, in cui, come dire, influenzava tutti insieme contemporaneamente la battaglia, non avevi... Diciamo che una volta iniziata la battaglia, in Final Fantasy erano tutti insieme in campo e magari agivano in turni diversi, ma diciamo il modo in cui agivano era quello, non era... Cioè, no, invece Pokémon era molto un discorso di ok, chi è in campo ora, chi devo mettere al posto suo... quale elemento è forte contro un altro, c'era quasi un livello in più di meta, tra virgolette, infatti è nato quasi con Pokémon. Infatti lo stile di combattimento dei Pokémon è stato rivoluzionario quando è uscito, ma non mettiamoci a parlare troppo dell'evoluzione di quello che se ne... Abbiamo parlato tipo un'ora la scorsa volta, ti ho triggerato, quindi... Esatto, poi si è evoluto anche con giochi come Final Fantasy Tactics, in cui non solo... non era solo la questione dei turni a interessare, ma si aggiungeva la componente della posizione delle truppe, delle varie debolezze di un certo tipo di combattenti rispetto ad altri tipi di combattenti, debolezze, resistenze, eccetera, eccetera. E quindi sì, è partito tutto, diciamo, dal classico D&D, in cui c'erano le statistiche di attacco, di difesa, eccetera, eccetera, per poi cambiare ed evolversi nel corso del tempo. E questo direi che è stato proprio il primo vero e proprio sistema di combattimento. Sì, perché dovevi definire tantissime cose che anche in D&D sono definite, quindi appunto l'ordine dei turni, come funziona, le varie statistiche delle armi, come le statistiche di un personaggio influenzano la sua capacità di fare certe mosse piuttosto che altre, range delle mosse, delle armi. Dovevi definire tantissime regole di ingaggio e di disingaggio, cioè, e stabilivi alla fine proprio un ritmo, proprio una specie di loop, no? Di combattimento, cioè questo fa questa cosa, poi faccio questo, cioè, e quindi diventava un... Loop sembra brutto da dire, però in realtà è un termine neutro in gaming, cioè semplicemente il ciclo di azioni e di eventi che si ripetono in un appunto in una sezione di gioco, ma è molto generale, cioè molto neutra come cosa. E dopo questo primo genere, stile di combattimento, c'è stata l'evoluzione in cui che si sta sviluppando ancora tuttora, secondo me, che è quella da passare dall'essere a turni, quindi un sistema più rigido, più misurato, anche matematicamente, ad un sistema più in real time, ovvero d'azione, di quello sul momento. Cioè la cosa a turni permetteva... Cioè questo di cui parli tu, questo passaggio, è stato anche grazie alla tecnologia. Cioè proprio il fatto degli RPG a turni e di tutti i sistemi di combattimento a turni è che puoi fare cose molto complesse, cioè molto complicate come statistiche, come combattimenti, come strategia, senza far sforzare troppo il computer, fisicamente la macchina, esatto, cioè senza far esplodere tutto perché deve fare tantissime cose insieme, semplicemente tu come essere umano se ci metti tanto tempo a fare una scelta, a pensare a una strategia, e hai tempo per farlo, perché il tempo si ferma quando è il tuo turno, quindi puoi, di solito si ferma, quindi puoi pensare. Allo stesso tempo, se ci mette 3-4 secondi a pensare anche il computer, dice ok, glielo perdono, sti cazzi. Ora, se lo fa mentre gioca a Dark Souls, cioè se il gioco si ferma per 4 secondi perché il boss deve scegliere cosa deve fare, ti rompe un po' il cazzo, se dici ma si è rotto questo gioco. Beh, però sì, è uno stile appunto che definisce proprio il tipo di gioco che vai a giocare. Abbiamo appunto il gioco più ragionato, più strategico, che utilizza il combattimento a turni per come dire, dare un ritmo alla battaglia. C'è il gioco d'azione che utilizza il combattimento in tempo reale per dare questo senso di dinamicità del gioco, di immediatezza. Tu sei proprio nel combattimento, e ultimamente più si va avanti, tutti i giochi, tutti i maggiori titoli si sono sviluppati in questa direzione. Pensiamo a tutti i giochi che abbiamo parlato in precedenza, Skyrim, tutti gli sparatutto in prima persona, tutti i picchiaduro, eccetera, eccetera, perché questa categoria di combattimento in tempo reale poi abbraccia tutti gli stili di combattimento che si possono creare in tempo reale, perché alla fine è questo grosso insieme che poi viene suddiviso in vari insiemi più piccoli. Abbiamo il combattimento in prima persona, che è quello che si vede principalmente negli sparatutto, in cui il tuo giocatore che mira con l'arma in prima persona, cioè, oppure in videogiochi come Skyrim o Oblivion, in cui il personaggio in prima persona combatteva, in questo caso all'arma bianca. Uno di funziona molto meglio probabilmente con le pistole, in questo caso, con mazze e spade. Soprattutto perché poi, in uno stile del genere, bisogna pensare a come alla capacità che ha il giocatore di controllare il personaggio che gioca. È molto più facile su uno schermo del computer in due dimensioni puntare il mirino di un'arma piuttosto che riuscire a muoversi destreggiandosi circondato di avversari impugnando una lama. E questo però, diciamo, aumenta di complessità come aumentano le cose, come posso dire, le scelte di complessità aggiuntiva che puoi mettere tu. Quindi, diciamo, se è un gioco 2D in due dimensioni, la complessità di un combattimento può essere più elevata, tra virgolette, perché tu hai uno schermo in due dimensioni, hai un mondo in due dimensioni. Quindi un gioco come non lo so, come Castlevania, cioè può avere un sistema di combattimento in tempo reale abbastanza complicato, anche nel senso che proprio hai, cioè ti viene richiesta più precisione, ti viene richiesta più ti viene richiesto più tempismo, più una capacità di capire, di ricordarti tutte le varie debolezze dei nemici. Ora, Castlevania magari nello specifico no, però è ancora più complicato se è in tempo reale ed è anche preciso, come magari Dark Souls, no? Cioè tu dicevi, devi essere in grado di capire dove è il tuo personaggio, come posizionarlo, devi essere in grado di, appunto, di vedere come schivare una mossa, magari, e come riposizionarti per dare un colpo. Cioè, comincia a diventare qualcosa che davvero ci serve una persona che pensa solo quello, o almeno un team di persone che pensa solo a quello, che cerca di svilupparlo al meglio. È un ottimo argomento questo, perché appunto, come dicevo, anche in questo caso il combattimento in non realistico, in tempo reale, è cambiato con il passare del tempo. Mentre si partiva, non sono sicuro, ma può essere che tipo forse uno dei primissimi giochi che l'aveva utilizzato poteva essere Doom. Poteva essere in tempo reale? Tecnicamente sì, cioè nel senso questa meccanica di in prima persona con i mostri intorno a te. Che... Ah, tu dici in prima persona? Sì, sì, sì. Esatto, sì, diciamo. Beh, se ci pensi effettivamente è è nato abbastanza con gli sparatutto, questo combattimento in tempo reale, che era quello forse più facile da fare sul momento, cioè che tu semplicemente dovevi solo puntare nella direzione giusta, neanche, non c'era un vero e proprio mirino, se non ricordo male in Doom era proprio, bastava che guardassi nella direzione del mostro per, e poi cliccassi in tempo il pulsante del mouse per colpirlo, e credo fosse stata una delle primissime versioni di questo stile di combattimento, ovvero quello in cui il giocatore, il tempo non si fermava per permettere al giocatore di scegliere la mossa da fare, ma semplicemente era il giocatore che doveva abituarsi a questo ritmo più frenetico del gioco. Poi appunto si è evoluto in giochi in prima persona, sparatutto, ma anche non sparatutto, e poi ci sono stati anche giochi che hanno anche noi, che hanno sempre combattimenti in tempo reale, però non in prima persona, come dicevi tu, per esempio i Metroidvania, se ci pensi anche i giochi di combattimento stile Tekken, Mortal Kombat. Sì, quelli sono più, cioè quello è stato il primo passo in realtà, cioè prima di andare agli sparatutto in prima persona, ah, eccetera. Infatti era per quello che non ero sicuro, non mi ricordavo se fosse arrivato prima Doom o giochi come No, Tekken. No, prima roba anni 80, tipo, sì, tipo roba di picchiaduro e anche altri RPG, però in tempo reale. E aspetta, però di cosa stiamo parlando? Prima hai detto di Doom, cioè la cosa di cioè di avere un sistema in tempo reale è che appunto ti serve sia tecnologia del sistema che stai usando, sia la tecnologia del sistema di input, cioè che cosa usi tu per comandare il tuo giocatore, il tuo personaggio. Quindi si adattava molto bene tipo alle sale giochi. Quindi è tutto, questa roba è tutta anni 80, cioè praticamente sono gli anni 80, è l'esplosione dell'essere bravo a giocare, no? Dell'essere un maestro di Pac-Man, no? Dell'essere proprio qualcosa che puoi imparare meccanicamente a fare se hai abbastanza quarti di dollaro o abbastanza 50, 500 lire. Cioè, e tutto questo è... si sviluppa insieme all'idea che il giocatore, cioè il personaggio che tu stai usando è un personaggio, cioè è qualcosa di definito che puoi vedere e controllare, che anche lì nasce sempre in quegli anni, no? Dopo Zork, dopo la striscetta senza identità in Pac-Man o in Asteroids, no? Certo. È quello che dicevi prima, non so se l'abbiamo mai definito. Abbiamo mai definito cos'è prima persona, terza persona? Beh, mi sembra che l'avessimo definito forse in altri episodi, ma per chi ci ascolta di nuovo, forse è meglio definirlo di nuovo ancora, ci sta. Non mi ricordo se l'abbiamo mai fatto. Vabbè, due parole veloci. Per sicurezza lo facciamo. Quando diciamo prima persona e terza persona, di solito ci riferiamo al modo in cui viene rappresentata la visuale del giocatore in un videogioco. In particolare i videogiochi in prima persona sono quelli in cui il giocatore vede il mondo di gioco attraverso gli occhi del personaggio che sta giocando. E come dicevamo, appunto, è classico degli sparatutto, di molti giochi della Bethesda come Fallout e Skyrim e tutti gli Elder Scrolls. Mentre per terza persona si intende quella visuale un po' più esterna al personaggio giocante. Noi vediamo il personaggio che controlliamo nel mondo di gioco tipicamente da una visuale o sopra la spalla oppure più panoramica, e lo vediamo appunto come se fossimo questa entità esterna che manovra questo personaggio all'interno del mondo. Siamo più Dio in questi casi. Esatto. Esistono giochi in seconda persona, ma non ne parliamo. No, ti prego. Adesso sta divampando quel video lì, comunque. Vabbè. E quindi queste sono le due, appunto, classiche rappresentazioni della visuale del giocatore. E come diceva Jacopo, sì, esistono anche videogiochi in seconda persona, ma non me ne vedo. Sono molto... nicchia, sono molto di nicchia, mi sa. E quindi, ritornando al sistema di combattimento, era giusto per dire, qui ci sono queste due grandi, ricapitoliamo un attimo che mi sto perdendo di nuovo anch'io, due grandi categorie, tempo reale e a turni. Ovviamente in ognuna di queste due categorie poi si è sviluppato in svariati modi, ci sono varie alternative, quelli nel tempo reale abbiamo gli sparatutto, in prima persona in cui devi mirare, puntare, sparare, ci sono i picchiaduro, si può considerare in tempo reale anche tutti quelli del picchiaduro in cui il combattimento è molto centrale, questa cosa del combattimento appunto come meccanica principale di gioco, tutti i giochi di combattimento, tutti i Metroidvania. Aiutami adesso, cos'altro abbiamo nel tempo reale? Cioè, in quegli anni sono anche nati dei giochi che mettevano insieme la parte di strategia con la parte di tempo reale, mm-hmm. perché di solito c'è un combattimento a livello proprio immediato e in tempo reale spegni un attimo la parte del tuo cervello che fa strategie a lunghissimo termine e ti concentri su sopravvivere di solito. Mm-hmm. Ed è una cosa che piano piano sia i picchiaduro con le varie combo, no? Le varie strategie di combo, di fatality, eccetera, hanno migliorato nel tempo, sono diventati molto complicati da seguire a livello di strategia ad alto livello, in realtà, ma anche i giochi strategici che prima erano solo a turni per permettere appunto al giocatore di pensare a come gestire le risorse, a che mosse fare e così con calma, sono diventati anche quelli in tempo reale. Quindi esistono dei giochi tipo la serie di Total War, si chiama, mm-hmm. quando stai ingaggiando in un combattimento farmate sei un generale che gestisce il combattimento proprio minuto per minuto, cioè sei lì che dici ok, questo plotone va lì, questa legione va di là, questo gruppo di samurai scala le pareti, cioè puoi dire a seconda di come si sta svolgendo il combattimento e di come è fatto il terreno, puoi muovere truppe e disporle in varie formazioni. Quindi, diciamo, con il tempo, questa cosa in tempo reale, questo combattimento in tempo reale, ha acquisito dei... questo in realtà fin da subito è cominciata, perché comunque arrivavano da lì, cioè arrivavano dal combattimento a turni, hanno acquisito dei sistemi un pochino più complessi, un pochino più strategici, del premo un bottone e do la spada a qualcuno. E proprio meno sono quelli che hai detto. È una buona rappresentazione di quello che sta succedendo, diciamo, che è successo in questi anni, cioè ovvero che si è spostato più l'interesse piuttosto che dal punto di vista strategico, quello più, come dire, intuitivo, cioè per esempio, se pensiamo anche a tutti i giocatori professionisti di sparatutto come Counter-Strike, Overwatch o anche giochi un po' più, non proprio sparatutto, ma comunque più in tempo reale come sono LOL o altre cose del genere, Dota, l'interesse si è spostato più che sulla strategia, più dalla strategia in sé pura a più quella parte istintiva del gioco, un po' come l'essere passati da guardare i giocatori di scacchi che ragionavano sulle proprie mosse a guardare più sport, più simili a quelli a veri e propri sport come il calcio e cose del genere, inteso più che la parte strategica adesso è molto più interessante anche da guardare questa cosa delle capacità fisiche del giocatore, diciamo, dei suoi riflessi, dei suoi istinti. E questo probabilmente è anche dovuto all'interesse degli sport, di come si è evoluto tutto il mondo videoludico in questi ultimi anni, di come si è andato a creare questa categoria di nuovo stile di intrattenimento. Questo però, cioè, ne parleremo magari nell'episodio sugli esports, è molto appunto, come hai detto tu, derivante da cosa rende interessante uno sport, che è sia, diciamo, la prestazione fisica degli atleti, quindi nel caso dei videogiochi è quanto sono magari, quanto hanno riflessi pronti, quanto riescono a ragionare velocemente, ma anche appunto la qualità del ragionamento stesso, quindi vedere una buona giocata magari a calcio, vedere una buona strategia che ne so, in un gioco come football americano, così, è anche parte del piacere di guardarlo, non è solamente guarda quel tennista quanto corre veloce, ma è anche guarda quel tennista come l'ha fregato l'altro, cioè è all'aggiungere la meccanica del tempo, del tempismo, cioè che il fatto che non ci sia più il tempo infinito per pensare a cosa fare durante un proprio turno, ma appunto rendere più immediato il combattimento, più... Da una sensazione di emergenza, di tensione. Esattamente, è quello che è stato sfruttato per rendere più interessanti i nuovi giochi negli ultimi anni, ed è assolutamente giusto che lo sia. È bellissimo perché hai la possibilità in alcuni di questi giochi di capire se un minimo conosci i videogiochi, hai subito l'immediatezza di capire cosa sta succedendo e capire che quella persona è brava, perché se hai mai giocato a un qualsiasi sparatutto nella tua vita, sai quanto è difficile mirare e sparare proprio di base, riuscire a coordinare le cose. Sai quanto è veloce, quanto è bravo, ma più guardi quello che fanno e più capisci quanta strategia c'è dietro, quanto pensiero, quanta, diciamo, fatica nella pratica, no? Quindi è bello avere entrambe le cose, secondo me. È bello avere sia la parte di abilità che la parte di strategia, come hai detto tu. E quindi questi sono i due grandi mondi del combattimento. E a questo punto, come avevamo deciso, forse era l'ora di parlare di come questi mondi si fossero evoluti, soprattutto con i titoli più moderni che hanno quelli, diciamo, un po' più rivoluzionari, secondo, per quanto riguarda il loro stile di combattimento. Noi abbiamo subito messo come primo della lista, forse l'ho messo io, Dark Souls in questo caso. Esatto. Togliamocelo subito, che sennò non è un po' l'elefante nella stanza in questo caso. Dark Souls, perché ha avuto così tanto successo da creare un nuovo genere praticamente? Beh, secondo mia modesta opinione, sempre in questo caso... Modesta, non ci siamo. Dark Souls ha decisamente rivoluzionato il modo in cui si vedevano i giochi in cui c'era un combattimento ad arma bianca. Prima di Dark Souls non mi vengono molti esempi di buoni giochi in cui ci fosse un buon stile di combattimento con armi come spade, mazze e che altro. E penso che Dark Souls sia riuscito a creare quel perfetto bilanciamento tra strategia e istinto, in questo caso. Un po' come dicevamo prima negli sparatutto, che, come diceva Jacopo, si nota quando qualcuno è bravo in uno sparatutto, cioè si riesce a capire se ha i riflessi pronti, se è in grado di analizzare rapidamente le situazioni e capire quello che deve fare in un momento di tensione. In Dark Souls questa cosa è riuscita molto di più rispetto a giochi come, per esempio, il primo che mi viene in mente è sempre Skyrim, se si parla di combattimenti ad arma bianca soprattutto di combattimenti ad arma bianca che fanno abbastanza cagare. Mi piace che la pensi come me su Skyrim, allora. Sì, pensiamo a Skyrim, lì era più che altro un gioco di statistiche, non c'era una vera strategia nel combattimento. Tu cercavi di avere l'arma più potente, poi quando ti arrivava qualcuno addosso premevi forsennatamente il pulsante sinistro e anche il destro, se facevi dual wielding tutti e due insieme, sperando di fare tu più male a lui che lui più male a te. In Dark Souls si è creata questa meccanica di lettura del... Oddio, non so se è creata, però è stata sviluppata al massimo questa meccanica di lettura dell'avversario. Tu riuscivi a... potevi imparare quali erano le strategie dei tuoi avversari e rispondere di conseguenza. E soprattutto non era più un turbinio di spade senza senso come Skyrim, ma i colpi erano precisi. Le hitbox, che sono... quella parte meccanica di, non meccanica di game design, ma proprio meccanica di funzionamento del sistema, che indica, diciamo, i momenti, le aree, le zone in cui viene fatto danno durante un attacco. Se pensiamo a un combattimento ad arma bianca, appunto, il modo in cui si, come si dice, si, ma non è manovra la parola che sto cercando, si sferza con la spada, non è proprio quello che... No, vabbè, ci sto qui. Il modo in cui si esegue questa mossa con la spada determina quali parti dell'avversario vengono colpite, in quale zona c'è il pericolo nel modo di gioco. E Dark Souls non usa questa... Dark Souls non è solo ti sei interrotto. Dicevo, in Dark Souls questa cosa non è solo un'animazione, non è giusto un come in Skyrim il personaggio che fa il movimento con la spada, ma non è preciso, non è delineato alla perfezione, mentre in Dark Souls questa meccanica è stata molto molto espansa. Se, piccola curiosità, c'è anche una cosa in Dark Souls che se tu colpisci un nemico con una lancia, la punta della lancia fa più male del resto dell'arma, in questo caso, perché appunto per delineare questa meccanica che se si riesce a colpire il nemico con precisione è più facile abbatterlo. Questo per fare un esempio molto molto stupido. Ci sono varie armi nei giochi di Dark Souls, ma anche tutti quelli derivati poi come Bloodborne, i successivi Dark Souls appunto, in cui varie armi hanno questi piccoli segreti, non tanto segreti, queste sottigliezze che rappresentano la tua rappresentano come sia diverso il maneggiare un'arma rispetto ad un'altra. E questo penso si noti anche da giochi, per esempio, altri giochi in cui il combattimento all'arma bianca viene molto sviluppato, ma non proprio per bene. L'esempio che farei in questo caso è Assassin's Creed, attenzione! Di cui non abbiamo mai parlato, giusto? mai parlato, cazzo. Qua... non far parlare solo me, Jacopo, se no... vai, voglio sapere cosa hai contro Assassin's Creed. Prego. Niente, cioè... un gioco bellissimo, assolutamente. A me Assassin's Creed poteva funzionare bene anche senza il combattimento ad arma bianca, probabilmente, dal 2 in poi. Soprattutto nei titoli... Devo ammettere che in quelli più recenti non posso parlare per i titoli più recenti perché non li ho giocati, infatti qua dovrà intervenire più Jacopo, ma nei titoli dal 2.5 in poi, cos'era, Brotherhood, ma anche il primo, sì, beh, il primo lasciamolo perdere, il primo no, anche il primo, cioè, perché insultare tutti, che teori. Ok, no, beh, il primo, perché il primo non lo volevo insultare, perché secondo me il primo, sembra come quando danno i giochi in accesso anticipato adesso. L'accesso anticipato di tutti gli altri Assassin's Creed che avevano. Ti senti un po' come insultare un bambino di 5 anni perché non sa la matematica. Non puoi dare un puoi prendere a calci una persona che è già terra morente. Dai. Sì, non parliamo del combattimento nel primo Assassin's Creed, però in quelli immediatamente dopo, in cui le meccaniche del gioco... le meccaniche vere dell'assassino, tra virgolette, erano state sviluppate benissimo, secondo me. Cioè, i giochi erano interessanti e, in buona parte, assolutamente decenti delle meccaniche, in alcune meccaniche. Non in quella del combattimento, in cui era tutto un fare un riposte all'avversario, un rispondere alle mosse dell'avversario e premere un pulsante giusto al momento giusto per uccidere quello che stava combattendo contro di te. Era giusto qualcosa in cui si rischia spesso di ricadere, in molti giochi Assassin's Creed non è assolutamente l'unico in cui si finisce, però è un classico esempio di quando il combattimento diventa più, appunto, viene usato, dicevamo che la violenza vende, in questo caso il combattimento viene usato per arricchire un po', mettere un po' di sale nel piatto, cioè aggiungere quel qualcosina in più che dice, ah, figo, oh, però era una perdita di tempo, non era una meccanica di gioco principale in questo caso. Guarda, ti do ragione. So che, oddio, attenzione, so che ti stupisce questa cosa, però è vero, nei primi Assassin's Creed la meccanica di combattimento era talmente banale che secondo me addirittura peggiorava il gioco. Cioè, quando ti scoprivano, perché magari stavi cercando di fare un po' di stealth, così di furtività, e ti scoprivano, non sentivi quella idea, oh che cazzo, cioè, ho fatto una cavolata, devo scappare, c'è questo senso di urgenza, perché se combatto mi ammazzano, o magari è difficile il combattimento, quindi non voglio... Era più una cosa del tipo... Oh, che palle, mo devo combattere, che schifo, cioè, nel senso, è brutto combattere in questo gioco. E l'unica cosa divertente era, secondo me, in Brotherhood, avevi delle armi pesanti, e quindi quando avevi accesso a quelle armi pesanti facevi delle uccisioni, delle esecuzioni divertenti da guardare, ma solo quello. Non so se ti ricordi. Le uccisioni pesanti erano fantastiche. Erano divertenti da guardare. In due la testa di quello che secondo me negli ultimi Assassin's Creed è migliorata la situazione, nel senso che adesso ci sono delle boss fight, delle situazioni con alcuni tipi di nemici che dici cavolo, interessante questa battaglia, non è solamente colpire uno e contrattaccare e prendere e tenere premuto un pulsante per schivare. È una cosa un po' più simile a Dark Souls, nel senso che è un po' più pensata, è un po' più ragionata su come ogni tipologia di nemico deve essere affrontato e come devi spostarti e come devi, cioè, che strumento devi usare in quale momento. Comunque è fatto male, cioè comunque ha un po' il problema di The Division, che è anche un altro gioco Ubisoft, nel senso che la difficoltà del combattimento e il metterti in alcune situazioni in cui è inevitabile rovina la furtività, rovina l'esperienza di quello che ti aspetti da un gioco come quello. Nel caso di The Division ti aspetti che se spari in testa una persona, la persona muore. Tu dici, che aspettativa è realistica, Jacopo, ma come mai non succede in The Division? No. In The Division ci sono queste persone che sembrano persone normali, ma in realtà sono delle spugne. Sono fatte di spugna che, come le spari, assorbono proiettili per un po'. Poi sono talmente pieni di proiettili che muoiono. Cioè, in Assassin's Creed, se io ho... Non è tanto la forza di propulsione del proiettile, è il peso di avere tutti quei proiettili dentro il corpo. Esatto, che li collassa a terra. Bravissimo, hai capito tutto. In Assassin's Creed, per bilanciare, ma è lo stesso motivo per The Division, per bilanciare il combattimento, se tu sei a livello 60, i tuoi nemici sono... minimo al 58. Il livello in questo caso è correlato anche alla potenza di attacco, quindi se tu vuoi uccidere un nemico che è una specie di generale, no? Una specie di super, di mini boss, non puoi ucciderlo dalla furtività. Se tu sei in furtività e hai come posso dire, hai la possibilità di calarti su questo nemico che non si aspetta di venire attaccato, nei precedenti Assassin's Creed, come in tutti i giochi di furtività tra l'altro, ti aspetti che muoia, dici cavolo, non se l'aspettava, gli taglio la gola o lo infilzo. Tutta roba molto, molto sicura per i bambini, tra l'altro, a quanto pare, secondo l'ente che fa questi rating, ma lasciamo perdere. Cioè, quando non lo fai più, come nell'ultimo Assassin's Creed, quando non riesci più a ucciderlo con un colpo da furtività, togli un po' la, come posso dire, diciamo la ragione. Che... non è più molto Assassin's Creed a questo punto. Non è più molto Assassin's Creed. Non sto dicendo che è brutto e sbagliato, perché Sekiro, che è uno dei giochi più belli, io ancora ho la crisi di astinenza da sistema di combattimento di Sekiro, forse dovrò rigiocarci e fare un'altra run. Sekiro, che è sempre la serie Dark Souls, è un gioco che mette un sacco di enfasi sulla parata, sulla schivata, sull'usare il tempismo e gli strumenti giusti al momento giusto, capire l'avversario, leggere l'avversario come Dark Souls, ma è anche una specie di omaggio a Tenchu, che era un gioco vecchio, furtività con i ninja, eccetera, e quindi è anche un elemento forte di furtività, o sbaglio? Assolutamente. In Sekiro c'è questa idea che se tu hai la possibilità di avere la, come posso dire, un attacco furtivo, un'opportunità di attacco furtivo su un mini boss, togli una barra della vita al boss, perché a volte ne hanno di più di una. Come, cioè, hai una barra della salute, la porti a zero o gli rompi la postura, cioè lo squilibri parandogli un sacco gli attacchi, poi gli togli una barra e poi c'è la seconda fase. Di solito è una cosa molto comune di questi giochi che danno molta importanza ai boss, ad avere più fasi del boss. E la cosa bella però è che in Sekiro, questo senso, perché il gioco è tutto nel combattimento, nel duello, è tutto incentrato nel leggere l'avversario, nel tempismo, e questi mini boss sono talmente rari e talmente importanti anche, a volte sono anche i più bei boss secondo me del gioco, alcuni di loro, cioè paradossalmente sono meglio alcuni mini boss di molti dei boss per me, poi magari questa cosa fa incazzare Marco, però è naturale, è giusto, lo accetto, dici ok, mi sono facilitato la cosa, ma non esco facilmente. In Assassin's Creed ogni fottutissimo generale, ogni fottutissimo, come cazzo si chiamano i generali quelli, i ptolemarchi là, che stanno nei campi quelli grossi, ed è mamma mia, cioè mamma mia. Scusa il rant, ma mi ha veramente rotto i coglioni questa cosa. Noi ce la prendiamo sempre con Assassin's Creed, ma voglio dire, in questo caso almeno secondo me non è l'unico di certo che è finito a fare questa cosa, cioè avere questo combattimento più di senza un vero e proprio principio, senza una vera e propria raison d'être, no? Oh mio Dio! Ha detto una parola brutta. Potrei, non so, opinione non impopolare, secondo me anche un altro esempio di combattimento un po' più interessante, perché influisce un po' di più la strategia, però anche lì fatto un po' è quello di The Witcher 3. Io ho scritto The Witcher 3 nella lista prima, mentre parlavi, perché per me il combattimento è fatto male, tra virgolette, cioè il combattimento di base non è un granché, no. Ma è molto, molto, scusami, molto molto carina la meccanica pre-combattimento, cioè l'idea di dove ad affrontare un particolare nemico, però alla fine la battaglia in sé vera e propria è sempre stata un po' ti ho interrotto, perdonami, dove stavi? No, hai detto quello che stavo per dire. Ah, perfetto. Cioè, è interessante che ti... Adesso uso una frase che usano tutti quanti i recensori di videogiochi. Ti fa sentire come Witcher. Cioè, nel senso che... nel senso che prima della battaglia ti devi preparare, devi leggere il bestiario, devi trovare ingredienti per fare unguenti, per mettere sulla spada, devi leggere quali sono i segni che ti aiuteranno di più. E per me è più il... cosa succede durante la battaglia, nel senso di quale segno uso adesso, quale unguento applico ora. Poi ovviamente il sistema di combattimento, sì, quello, cioè, è innegabile che sia banale e fatto anche un po' male, però cioè, mi piace molto la cosa intorno, la cosa di contorno. Qual è, secondo me, uno dei giochi che questo stile di combattimento, cioè quello in cui... deve contare anche la preparazione, tutto quanto, quello che fai prima di, diciamo, di affrontare il tuo nemico. Un gioco che secondo me lo fa veramente molto bene è tutta la saga di Monster Hunter. Nella saga di Monster Hunter c'è appunto questa idea di tu che devi andare a cacciare questi grossi mostri, queste creature gigantesche estremamente pericolose. Tu sei questo cacciatore con delle ossa probabilmente in amianto, a giudicare dalle sberle che prendi e dal fatto che riesci poi a rialzarti, ma a parte questo, le meccaniche di combattimento sono incentrate su due parti. La prima è quella della preparazione alla caccia, dove tu devi preparare i tuoi strumenti, devi preparare le tue armi, devi preparare le tue armature, eccetera, eccetera, tenendo conto anche di quale mostro andrai a cacciare dopo. Ma il combattimento è completamente diverso, secondo me, da quello di Dark Souls. Cioè, non è più, anche in questo caso, è più incentrato sulle statistiche e non è incentrato sulla precisione, sul come dire, tempismo. Guarda, ora che sto cercando di spiegarlo, forse mi viene da dire più. Usa queste cose qua, ma in maniera completamente diversa da quelle di Dark Souls. Ah. Mentre Dark Souls è tipo... Ecco, Dark Souls è più quello sprazzo di... È quell'attimo, è quel momento di vita o morte. Tu vedi il tuo avversario, impari a leggerlo e devi cercare di finirlo il più velocemente possibile. Tu sai che sei anche disposto a rischiare un po', sei un po', come dire, sei sempre sul filo del rasoio, su sapere, ok, mi butto qua, c'ho tipo 2 HP, ma se mi butto qua dovrei farcela, bam, riesci a colpire proprio al momento giusto e a sopravvivere. In Monster Hunter è più quella sensazione di maratona, cioè se Dark Souls appunto è uno sprint, qua in Monster Hunter è più una maratona, cioè contro questa creatura gigantesca e sai che devi riuscire, non sarà facile buttarla giù, anche se poi ovviamente tutti, ci sono sempre quelli che riescono, fanno i video in cui abbattono un mostro con un colpo solo, ma vabbè. Ma no, vabbè. Il gioco, lasciamo perdere questi stronzi. Tu, come dire, sia un combattimento, tu senti la tensione del vero cacciatore contro la bestia, cioè tu devi riuscire a leggere il tuo avversario e reagire di conseguenza, e quindi non è tanto la precisione e il tempismo giusto, quanto il riuscire a capire bene come funziona il tuo avversario, a capire quali sono le sue aperture, a capire quali sono questi momenti in cui colpire, che sono molto più lunghi rispetto a quelli di Dark Souls. Magari in Dark Souls tu riesci a dare un colpo, magari mentre in Monster Hunter tu riesci a concatenare e fare un'intera combo, così. Però è proprio questa tua capacità di combattere sempre con le stesse creature, di impararle sempre meglio, di capire qual è il momento giusto per attaccare, il momento giusto per ritirarti. Il che rende molto interessante il combattimento in questa, senza renderlo tedioso, perché comunque sai che sei sempre a un passo dall'essere abbattuto tu da questa creatura. Quindi stai dicendo che Monster Hunter ti fa sentire come un Monster Hunter? Parole di bocca. E quindi qua abbiamo parlato principalmente di combattimenti ad arma bianca in tempo reale, che ci sta, perché sono quelli che secondo me, soprattutto negli ultimi tempi, hanno avuto un po' più un revamp, un po' sì, più una rinascita, un restyle. Non solamente questi che dici tu di precisione e di lettura dell'avversario, ma anche quelli più stupidi, secondo me sono stati portati a quasi uno stato dell'arte, tra virgolette, perché tipo ci sono due studios, principalmente studios, uno è Platinum Games e l'altro è Ninja Theory, che secondo me hanno portato un po' le serie Bayonetta e Devil May Cry un po' a non all'estremo, però un po' a un rifinimento che prima non avevano. Cioè adesso sono molto più, è vero, caotici, perché alla fine sono dei giochi dove il caos regna. Cioè devi premere pulsanti continuamente, spostare gli avversari, saltare, fare combo, ma comunque hanno delle tattiche in mezzo, hanno delle strategie, ci sono delle decisioni. Soprattutto ho visto un sacco di video che parlavano del sistema dei Mech Cry 5, di come in realtà ci siano dei personaggi che rivoluzionano questo sistema di combattimento, che si chiama hack and slash, proprio perché, cioè, semplicemente picchi e basta. E c'è un personaggio, mi sembra che si chiama Virgil, se non sbaglio, di Devil May Cry 5, potrebbe essere. Mai stato un grande fan di Devil May Cry. ma quello è più per gusto personale mio. No, no, è... quello stile di gioco non mi interessa molto. Io gioco tipo a 4 e basta, però sì, cioè che rivoluziona un po' proprio cosa vuol dire hack and slash e cosa, che cosa può fare un giocatore in un gioco anche hack and slash con un diverso sistema di comandi, perché quel personaggio invece di essere lui che picchia con la spada e che salta e spara eccetera, è semplicemente il personaggio che dà comandi a delle bestie che combattono per lui, tipo un corvo e una puma, mi sembra, non mi ricordo. E lui semplicemente lo devi spostare cercando di tenerlo fuori dal combattimento mentre dai input ai due, agli animali che hai. Carino. È interessante, ma soprattutto funziona, che è strano, perché tu dici non dovrebbe funzionare perché ti incasini, no? Cioè come fai a gestire creature diverse e a dare input veloci? E invece a quanto pare funziona anche, è anche molto interessante. Questo per dire che con gli anni, come dicevi tu, c'è anche il combattimento all'arma bianca, negli ultimi anni ha avuto una rinascita anche in generi vecchi, tra virgolette, cioè non... Dark Souls, non Souls-like, tra virgolette. Assolutamente. Invece volevo fare un piccolo accenno di un gioco che mi aveva interessato, anche in questo caso non ho ancora avuto molto la possibilità di giocarci, ma questo vorrei recuperarlo. Si tratta di XCOM. In questo caso si parla di gioco di strategia, quindi non più in tempo reale, che però... secondo me ci ha creato, oddio, non so se ha creato il termine giusto, perché non penso sia proprio lui il creatore di questo stile. No, però ha un po' fatto rinascere. Esatto, secondo me è un'ottima rappresentazione di quello che rende interessante questo tipo di gioco strategico. XCOM è un gioco in cui tu sei il comandante generale di questa XCOM, una forza di combattenti, creata per proteggere la Terra da un'invasione aliena. Classico, no? Non è per la storia che parliamo di questo. In realtà un po' l'ho vista, no? Devo ammettere che è anche abbastanza carina sotto punto di vista. Si diventa più interessante dopo, lo promettiamo. Sotto molti rami, diciamo, si dirama molto e anche abbastanza... non male. Comunque non è quello che volevo parlare. Ha creato, in cui c'è questo stile di combattimento strategico a turni, che però non è il classico tu fai una cosa, il tuo avversario ne fa un'altra, poi tu fai no una cosa, eccetera, eccetera. E oltre a essere appunto su una mappa in tre dimensioni, a dire il vero, in cui non esiste solo... non esiste solo coordinate X e Y, diciamo, ma esiste anche una coordinata più verticale, cioè ti puoi posizionare in luoghi sopraelevati o sottoelevati rispetto ai nemici o alle altre tue truppe. Se ci sono vari livelli di altezza nella mappa, e questo già è una cosa che non si è vista in moltissime... c'è stato, penso, vorrei dare notizie sbagliate, però mi sembra che sia stato uno dei primi a usare questa meccanica, ma non sono sicurissimo. Fake news, no, non lo so. No, non prendetela come ho colato questa. Tu stai parlando dello XCOM, quello originale, quello vecchio? Può essere, sì. Sì, del primo. Beh, parlavo di quello, poi c'è stato anche ovviamente un seguito. Ma di quello lì, guardate, mi è piaciuto molto come inserisse, anche in questo caso, come dicevamo prima per Monster Hunter e The Witcher, una specie di preparazione alla battaglia, nel senso che tu non so bene come... non so se c'era in quello vecchio la fase strategica prima. Mi sto confondendo io, forse. Perché in quello vecchio mi ricordo che comunque era combattimento a turni, ma era tipo isometrico, una cosa del genere. E non mi ricordo se potevi personalizzare e diciamo aumentare la tua base tra un combattimento e l'altro. Nel reboot della saga, quello nuovo, cioè quello recente, XCOM 1 e anche XCOM 2 che è uscito poco tempo fa, c'è anche questo elemento che dici tu. Sì, nel remake sì. Al reboot, allora. Esatto, questo in cui quello che fai al di fuori del combattimento influisce molto sul combattimento, e questa è una cosa che, ma secondo me è anche uno di quelli che riesce meglio a come dire, a utilizzare la meccanica della randomicità nel combattimento. Una cosa che si vede bene in questo gioco, appunto, come la probabilità di colpire qualcuno, dell'efficacia di una certa arma su, contro un particolare tipo di nemico, crei poi conseguenze a cascata su tutte le azioni successive che farà il giocatore. Mentre, se pensiamo alla fine in giochi come, un esempio più classico mi viene è il Pokémon, in cui sì, strategia a turni molto più semplice rispetto a XCOM, in cui effettivamente c'era la possibilità di fallire con una mossa. Questo creava sì delle conseguenze, ma molto limitate, inteso a volte le mosse non colpivano e potevi dare un vantaggio al tuo avversario per i turni successivi, e va bene. Non, il fatto che una mossa mancasse raramente implicava la tua completa sconfitta. Nel gioco di XCOM invece il giocatore è costretto a ragionare sulle probabilità, diciamo, di tutto quello che gli sta attorno, perché è uno di quei giochi in cui un calcolo sbagliato, un po' di sfortuna a volte anche, può far cambiare completamente le sorti di una battaglia, e penso che sia un'ottima cosa come l'abbiano sviluppato questa idea, cioè che a volte effettivamente tu puoi fare tutto quello umanamente possibile, puoi calcolare tutte le probabilità possibili, ma comunque un po' di sfortuna ogni tanto ti può stare che ti faccia perdere qualcosa di prezioso, può per esempio far morire una delle tue truppe, che nel gioco di XCOM sono, tra virgolette, la tua squadra di Pokémon, che però non torna in vita se le porti al centro Poké. Quindi sì, era giusto per dire che secondo me avevano sfruttato benissimo questa idea delle conseguenze ovvero che uno doveva ragionare molto su che tipo di quale mossa fosse quella giusta da fare, e che ci fosse questo elemento di fortuna, di randomicità, che influisse sul proseguo del gioco, in definitiva. Sì, è sempre bello poi che ti dà delle scelte che devi fare fuori dal combattimento e che non sono mai giuste. Cioè, nel senso... Esatto, ecco, Simo, no? Mi sta proprio sfuggendo quello lì. Non c'è un'unica soluzione migliore, proprio come diceva Jacopo, non c'è nulla di giusto, nel senso tu puoi solo analizzare. Puoi fallire come vuoi. No, puoi fallire come vuoi, ma nel senso tu puoi, c'è i momenti in cui devi ragionare e c'è dei momenti in cui devi pregare. E secondo me questa tensione che si crea nel gioco è quello che lo rende veramente interessante. Quindi bravi, bravi quelli che hanno fatto. Mi viene un applauso. Dagli soldi, compra Chimera Squad, cazzo, che è l'ultimo uscito, che è un bel esperimento. Volevo citare dei giochi che secondo me hanno un po'... parlando di giochi a turni, di combattimento a turni, che adesso abbiamo un po' rispolverato nel senso di come si sono portati un po' nei tempi moderni. Sono alcuni giochi che hanno un po' preso questa idea del combattimento a turni, però anche in tempo reale, perché ci piace tutte e due, tipo secondo me Final Fantasy 13, o che deriva un po' da Final Fantasy 7, alcuni giochi anche di MMO, dove hai dei timer, no? Sulle abilità, quindi non sei sempre al 100%, Tutto il tempo, non è come uno sparatutto che hai sempre l'arma a disposizione, hai dei tempi, no? Puoi fare una cosa e ora hai fatto questa cosa, ora il nemico risponde, no? Un po' come in Valorant, dove hai le abilità, o in Overwatch devi essere bravo a sparare, ma hai anche questa idea del timer, devi pensare al ritmo, devi pensare, ok, botta e risposta, l'avversario ha usato questa abilità, ora io uso questa, cooldown, eccetera. Un'altra cosa è che l'idea dei giochi a turni, come abbiamo detto prima, è che il tempismo non è essenziale, è una cosa che non devi essere bravo con le tempistiche, non devi essere bravo a ragionare velocemente, devi essere solo bravo a ragionare. L'altra cosa però, che secondo me inizialmente è stata un po' ignorata, è che essendo un gioco a turni, le tempistiche le puoi gestire tu come sviluppatore molto di più. Ti spiego, cioè una delle cose essenziali della comicità, delle caratteristiche essenziali di una buona comicità, di una buona battuta, è il tempismo. Cioè è quando dici quella la punchline, cioè la parte finale della battuta, o come magari un personaggio dice qualcosa, in che momento lo dice. E questa cosa nei videogiochi spesso non puoi farla, perché è il giocatore che ha le redini, non che ha scritto la battuta. Ovviamente puoi ovviare dando al giocatore la possibilità di fare qualcosa che fa ridere, tipo in Goose Game c'è un pulsante dove l'anatra starnazza, e quindi c'è, cioè, fa ridere già quello, che tu in qualsiasi momento puoi starnazzare dentro una bottiglia, dentro. E l'altro modo di farlo, secondo me, è che South Park Stick of Truth, un gioco appunto della serie South Park di cartoni, è un gioco a turni e quindi ha la possibilità di fare battute in momenti in cui il giocatore non avrebbe comunque il controllo dell'azione. Non so se mi sono spiegato. Cioè, comunque il controllo del ritmo lo può avere molto di più lo sviluppatore. Non so se mi è venuta in mente adesso questa idea, perché ripensavo un po' a cos'è che uno sviluppatore può fare adesso con un sistema a turni che non poteva fare prima, o magari cos'è che gli sviluppatori hanno realizzato solo ora che possono fare con un sistema a turni che prima non ci pensava. Usare la meccanica del sistema a turni di un combattimento anche per fare qualcos'altro oltre al combattimento. Esatto, quindi fare comicità, fare... cioè, esatto. Esistono anche poi giochi che tipo sono tipo XCOM, ma uniscono la parte a turni con la parte in tempo reale, nel senso che hai per esempio, vabbè, hai Mutant Year Zero, che è tipo, credo che si chiami così, che è tipo in tempo reale per la parte stealth, poi appena ti fai scoprire immediatamente diventa come XCOM, quindi diciamo hai la possibilità in tempo reale di posizionarti, di aggirare un nemico, e poi quando invece vuoi combattere diventa come XCOM. Più o meno la stessa cosa per Divinity. Poi però hai anche giochi come... questi sono nuovi, cioè, o perlomeno per me sono nuovi, non so se esistevano pure prima. John Wick X, e anche altri che non ricordo. John Wick X è un gioco a turni, un combattimento a turni, ma in realtà su una timeline. È un po' difficile, cioè nel senso tu puoi fermare l'azione e pensare a cosa fare. Quando decidi cosa fare, tutti quanti si muovono nello stesso momento, sia tu che i tuoi avversari, e le decisioni che fai sono diciamo visibili, cioè tutte le cose che succedono sono visibili in una specie di linee temporali, quindi tu vedi ogni personaggio con le azioni che sta facendo su queste linee temporali che assomigliano un po' a ai programmi di editing video, dove hai diverse tracce e poi spostarle, tagliarle. Molto interessante. È molto interessante e molto bello, perché unisce la parte di strategia di fermare l'azione e pensare con la parte di tutti quanti agiamo nello stesso momento, quindi è preciso ma anche no, cioè sia preciso in quello che fai ma anche un po' come? Caotico. Caotico, esatto. Ricorda leggermente i giochi tipo Baldur's Gate o quegli altri, che effettivamente non abbiamo molto... Dragon Age. Esatto, quelli in cui tecnicamente il combattimento avveniva in tempo reale, però tu avevi la possibilità di fermare il tempo e dare gli ordini alle tue pedine di gioco. Quindi sì, era... era in... ecco, quello forse è uno dei mix tra tempo reale e strategia a turni che è venuto non necessariamente meglio, ma più interessante, inteso che sì, il combattimento si evolveva in tempo reale e tu effettivamente potevi reagire a avvenimenti o a mosse degli avversari, e a volte, però a volte con il rischio magari di non riuscire a reagire in tempo prima che sì, prima che, diciamo, magari alcuni effetti avevano conseguenze da te inaspettate, quindi le tue mosse pensate in quel momento non erano state quelle giuste, perché effettivamente c'erano state più conseguenze di quante ti aspettassi. Anche per... Sì, però diciamo in Dragon Age era... cioè Dragon Age è un bellissimo gioco, però la cosa è che in Dragon Age tu dici ai personaggi cosa fare, cosa che puoi fare anche di quei Mass Effect, e poi loro la fanno. In John Wick X ci sono dei momenti, è comunque a turni, nel senso che ci sono degli intervalli scanditi di tempo in cui succedono cose, ma tu puoi, diciamo, succedono tutte nello stesso tempo, quindi è leggermente diverso da Dragon Age, non so bene come spiegarlo, e non è fatto benissimo, cioè a me non è piaciuto John Wick X alla fine, però... però è molto interessante. È interessante, sì. Potremmo essere di fronte all'inizio, al seme di una nuova evoluzione, di una... Sì, tra l'altro l'ho già visto in un altro gioco di Mac, dove usano sempre questa meccanica delle timeline e del turni, ma in tempo reale, ma è fatto bene, secondo me è fatto meglio di John Wick, perché prima di tutto è più fluido. John Wick si muove a scatti, fa brutto rivederlo in tempo reale. In quel gioco puoi vedere una specie di simulazione del futuro, cioè puoi vedere una specie di stima di cosa faranno gli avversari, che è molto figa. Però non mi ricordo adesso il nome, dovrò cercarlo, il nome del Mac, magari lo metto in descrizione dopo. Un'altra cosa figa che i giochi a turni possono fare è... no, in realtà no, questo l'abbiamo già detto con South Park. A me piace molto Worms, perché fa collassare, fa troppo ridere, perché puoi distruggere tutti le varie mappe così, e fare cose assurde. Quindi anche lì è un discorso di comicità. Se vogliamo fare un ultimo accenno ai giochi di strategia a turni, poi mi sa che ci dobbiamo avvicinare. Dobbiamo andare avanti, sì. E più che altro puoi chiudere con un punto che volevo fare. Dicevo, un ultimo esempio di giochi di strategia a turni interessanti che mi viene da pensare in questo momento è Slay the Spire, che è molto, cioè, l'idea di base è proprio quella di un classico RPG con il combattimento a turni, che però questo gioco rinnova un po' unendo due mondi che non mi era mai capitato molto. Non penso sia stata forse la prima volta che l'hanno fatto, ma forse è stata la prima volta che è stato fatto bene. Ha unito il mondo dei giochi di carte con il mondo di combattimenti a turni stile un po' Final Fantasy. Infatti tu combatti contro questi mostri che incontri durante la scalata di questa gigantesca torre, utilizzando un mazzo di carte che rappresenta le tue mosse disponibili per quel turno. Quindi tu c'hai questa, appunto, meccanica di randomicità del pescare solo un certo numero di carte all'inizio di ogni turno, e quindi la tua pool di mosse disponibili è limitata per quel turno lì del combattimento. E dopo c'è tutta la meccanica del costruire il mazzo, quindi decidere quali tipi di mosse andare a utilizzare piuttosto che altre, eccetera eccetera, e come dire, molte altre meccaniche si vanno a incastrare molto bene. Infatti Slay the Spire è un ottimo gioco, lo consiglierei a chiunque ci stia ascoltando, che è un po' un patito di giochi di carte come perché è un rispetto al classico gioco di carte. Mi sono divertito per parecchio, anche troppo tempo, quindi dovremmo fare la rubrica sui giochi di carte, la faremo probabilmente. Però giusto per avviarci un po' al finale, perché sennò aspetta, mi è venuto in mente un ultimo gioco a turni, tra virgolette. È un gioco che in realtà non è a turni, ma è tipo un rhythm game, si chiama Crypt of the Necrodancer, dove tu devi andare a turno, devi andare a tempo con la musica per fare tutto, quindi anche combattere. E niente, è carino, se volete cercatelo, guardatelo, perché è più divertente da ascoltare e da vedere che non da spiegare. Perfetto, e con questo vorrei chiudere più o meno l'episodio con un punto che ora vogliamo fare i sapi. C'è un punto che in realtà può essere detto per qualsiasi cosa al mondo, cioè non tanto dei videogiochi, ma proprio in generale di qualsiasi cosa. Però secondo me conviene, almeno nel nostro campo, farlo per il sistema di combattimento, perché secondo me è uno di delle maggiori casi, uno dei casi più comuni in cui questa domanda, questo punto, questa affermazione viene un po' dimenticata. Perché siamo talmente abituati ad avere un sistema di combattimento in tutti i videogiochi che appunto spesso ci dimentichiamo di chiederci perché facciamo un sistema di combattimento, cioè qual è lo scopo del sistema di combattimento. E penso che sia quello che uno si deve un po' chiedere quando fa il design di un nuovo gioco. Per esempio, Dark Souls, Monster Hunter o questi erano i principali esempi che abbiamo fatto, hanno il sistema di combattimento come meccanica principale di gioco, anche Sekiro, anche Bloodborne e tutti gli altri. Il gioco esiste principalmente come sistema di combattimento tra te, giocatore, tuo personaggio, contro questi avversari nemici. E infatti, se guardiamo a questi giochi, il sistema di combattimento è avvincente, deve essere interessante, perché sarà la cosa che farai più a lungo durante il gioco. È proprio per quello per cui compri il gioco, quindi se ti vendono un Dark Souls in cui il sistema di combattimento fa cagare, vedi un po' Lord of the Fallen. Shots fired, attenzione. Può darsi che il gioco non sia venuto troppo bene. E tra l'altro proprio in questo caso vorrei accennare che bisogna anche fare attenzione quando, questa era un'altra cosa che forse avremmo dovuto accennare prima come sistema di combattimento nuovo interessante, quello di For Honor, in cui effettivamente il sistema di combattimento doveva essere la meccanica principale, al centro di tutto il gioco. Però, insomma, cioè, qua non so se Jacopo è d'accordo con me, non mi sembra se gli sia venuto benissimo anche in questo caso. Non so commentare, no comment. No, veramente non ho visto abbastanza, non ho giocato abbastanza. No, neanche io ci ho mai giocato molto, a dire il vero, però... E allora che cazzo di... No, però ho visto un po' dalle cose in giro, devo ammettere, sì, forse sono un po' pregiudicato in questo caso, almeno non so se è stato modificato o cambiato però lì non so, forse è stato troppo cattivo io in questo caso, non prendetemi in parola, provatelo, ditemi, a me è sempre sembrato un po' troppo macchinoso, però... Quello sono io. Sì, cioè, quello che dice è giusto, nel senso, in generale, se tu fai un gioco dove il combattimento è la meccanica principale, deve essere fatto bene. Ora, magari non tutti i giochi sono così, a volte il punto di un gioco... E infatti era proprio questo che volevo arrivare. Noi abbiamo parlato male di Assassin's Creed e altre cose un po'... Beh, principalmente di Assassin's Creed. Perché? Se tecnicamente... Lì è quello, secondo me, una cosa che è venuta particolarmente male però in quel caso è che neanche lì gli sviluppatori avevano molto in mente perché cosa servisse il combattimento. Cosa doveva essere il combattimento? Una punizione perché avevi fatto male lo stealth? O doveva essere uno stile di gioco se non avevi voglia di fare lo stealth? Non c'era un design chiaro, assolutamente. E quello è il punto. E sembrava molto un mischione tra le due, cioè dovevi essere punito per aver sbagliato il tuo fare l'assassino, o doveva essere effettivamente un'alternativa al tuo fare l'assassino? Però posso dire una cosa, almeno Assassin's Creed non cerca di nasconderlo. Cioè, loro sanno che è una merda, ma cercano sempre di migliorarlo, di cambiarlo, anche solo leggermente. Non è mai diverso, cioè non è mai uguale un Assassin's Creed rispetto a quello prima. Cambia sempre qualcosa. Provano sempre a fare una cosa diversa finché non funziona. Rompono cose. Invece, L.A. Noire, sai cosa ha fatto? Non so se lo sai questa cosa. Hanno proprio chiesto al giocatore: oh, ma vuoi saltarla questa parte di combattimento che sappiamo che fa schifo? È vero, me l'ero dimenticato. Cioè, io quando l'ho visto ho detto, no, ma questi sono malati. Cioè, invece che fare una cosa divertente, ha detto, no, ma saltalo. Cioè, nel senso, lascia perdere. Tanto non è questa la parte bella del gioco, eh. È la parte dove guardi le facce che si muovono. Quello è veramente, secondo me, è criminale. Ci sarebbe da dire, ma che cazzo hanno fatto? Però anche... ok, perché alla fine, cioè, ci sta. No, no, ci sta. Cioè, nel senso, mo io stavo scherzando. Cioè, ci sta, è come... Hack and Slash, che è un gioco della Double Fine piccolino di qualche anno fa, praticamente questo era un gioco di quelli tipo prototipi, dove tu, è molto corto in realtà, dura tipo un'ora, però è infinitamente moddabile. Cioè, conosco persone, cioè, ho letto su internet che hanno trovato roba che per arrivarci, cioè per arrivare, vabbè, lasciamo perdere. Perché è così strano? Perché il gioco, nel gioco tu sei una specie di Link. Tra l'altro dobbiamo parlare di Breath of the Wild velocemente, adesso facciamo gli esempi di combattimenti belli. In questo gioco sei una specie di Link di Zelda, quindi eroe, sale dall'alto, arma, così, però la tua arma è tipo un cavo USB. Quindi tu, l'intero gioco sei tu che hackeri cose, tipo che, diciamo, il puzzle, come posso dire, l'elemento di puzzle fondamentale è tu che arrivi a inserire questa cavo USB in cose, tipo in oggetti, in persone, che schifo. Quindi in realtà il gioco potrebbe essere banale. Sì, ci sono delle puzzle difficili dove devi un po' usare la testa, però i nemici, cioè il combattimento, semplicemente basta che gli arrivi vicino, metti la porta USB, metti il valore di salute a zero perché vedi tutte quante le proprietà del nemico come fosse codice e quello muore. Molto. Però la cosa bella è che puoi fare cose strane, cioè puoi davvero giocare come cazzo ti pare a te, un po' come Just Cause, no? Il combattimento di Just Cause anche non è una cosa del tipo, ah, vogliamo fermare il giocatore, vogliamo che sia difficile, no. Il giocatore si vuole divertire, si diverte come vuole, cioè è una cosa molto sandbox. E anche lì, cioè, dipende dai gusti, se a te piace solo finire il gioco, vincere... come per esempio anch'io, cioè io non sono molto creativo con queste cose, però se magari, che ne so, ti viene voglia di lanciare una vacca nello spazio, puoi farlo in Just Cause, cioè puoi mettere i razzi dietro la mucca e spararla. Quindi, cioè, o magari l'ultimo esempio che voglio fare di giochi che hanno combattimenti di merda ma sono fatti apposta sono questi due, che secondo me sono degli esempi più importanti della storia, forse, dei videogiochi. Uno è Spec Ops The Line, dove il fatto che il combattimento sia noioso e sia banale è il fottutissimo punto del gioco. Il problema è che devi arrivare alla fine per scoprirlo. Cioè, piano piano lo scopri seguendo un po' la storia e non dico niente perché anche sono passati tantissimi anni, invito tutti quelli che non l'hanno provato a giocarci e è veramente ancora molto bello e molto rilevante. Però l'altro che posso invece parlarne è Undertale, dove il combattimento è fatto apposta per essere anche lì ripetitivo e noioso, perché è essenzialmente un personaggio che perde la sua anima pezzo per pezzo. È quello il punto della scelta che fai attaccando un nemico invece che cercare semplicemente di schivare i suoi attacchi e risolvere pacificamente un conflitto. Quindi anche quando è fatto male, potrebbe essere il punto del gioco il fatto che sia brutto il combattimento. Perché in questo caso mi verrebbe da dire che il motivo, il perché di questo sistema di combattimento è forse, in questo caso, volevano raccontare una storia più che un vero e proprio sistema di combattimento. Oddio, sì. Sì, vabbè, c'è anche la parte di schivata che è figa, però dico proprio quando attacchi... Prima di finire volevo... anche quei sistemi di combattimento più atipici che si trovano in giro, per esempio diciamo prima di Bayonetta e Devil May Cry, lì il sistema di combattimento non è tanto... perché questo sistema di combattimento? Non è strategia o cose del genere, secondo me lì è sempre stato più la spettacolarità del combattimento stesso, cioè lì era il giocatore che trovava divertimento nel fare queste combo pazzesche, queste... sì, queste animazioni assurde del combattimento, e questa era una motivazione a sé stante per tutta la cosa. Poi altri giochi che mi vengono in mente, sempre per dire un po' quelli più diversi, il combattimento in giochi come Diablo e Diablo Clone, quelli lì, anche lì c'è la parte di spettacolarità che però forse deriva più da tutta la matematica che ci sta dietro al sistema, cioè questo giocare con le statistiche del personaggio, del vedere i numeri, che alla fine sono numeri che diventano sempre più grandi quando trovi oggetti più potenti o armi più rare, eccetera, eccetera, che è divertente in un certo modo di per sé. Quindi il combattimento, perché il combattimento di Diablo 3 è stato particolarmente ben recepito, perché ogni volta che colpisci ti fa vedere il numerino che diventa sempre più grande sulla testa dei nemici, quindi c'è anche quella componente lì da considerare durante tutto lo sviluppo, e niente, era giusto per dire, e che molti giochi prendono il combattimento solo come perdita di tempo, un po' questo succede anche tutti i miei, tipo io Skyrim alla fine l'ho sempre considerato un po' combattimento, non c'è una perdita di tempo, l'intero trovi il loot nei nemici che uccidi, va bene, però è più... No, va bene, anche lì, dai, anche in Skyrim ci sono dei combattimenti fighi, tipo contro alcuni draghi. Se vai, come dire, costruisci un mago o uno che fa stealth con gli archi e cose del genere, lì c'è un po' forse di spettacolarità nel combattimento, che può essere una delle ragioni dietro. Però cioè, alla fine molti giochi finiscono per pensare che il combattimento sia un modo per prolungare il gioco stesso, e questa cosa, cioè, secondo me forse negli ultimi tempi soprattutto non si può più fare, inteso che di giochi se ne sono di migliori in cui il combattimento non certo. È in questo modo, e quindi ci si rischia poi di perdere, far sì che il giocatore perda interesse nel gioco. Io sì, per concludere volevo, prima di arrivare al finale, alla nostra rubrica finale, volevo un po' appunto riassumere che cos'è che rende un combattimento migliore, portando come esempio in realtà due sparatutto che secondo me sono un po' quasi l'apice del sistema di combattimento sparatutto, cioè Halo e Doom quello nuovo. Secondo me sono entrambi giochi che considerano molto il combattimento come essenziale, come la, diciamo, l'attrazione principale, entrambi lo fanno in un modo che un po' riassume tutte le caratteristiche buone di un combattimento, cioè, come hai detto tu, il feedback, magari adesso tu mi correggi, mi dici no, deve essere, poi aggiungi qualcosa, però devi avere il feedback delle azioni del giocatore, come in ogni cosa. Quindi il giocatore fa qualcosa e tu devi dargli l'idea che ok, questa cosa è stata efficace, oppure no, questa cosa non è efficace. Devi dargli comunque una sensazione di adattamento, cioè devi adattare la tua strategia, devi adattare quello che stai facendo al nemico che hai davanti, e a una situazione che si evolve continuamente, che non è mai uguale, che è sempre, magari inizialmente sembra uguale, ma poi si rivela avere delle modifiche. Quindi magari pensi che il nemico sia lo stesso, ma la situazione è diversa, o il mix dei nemici è diverso, o magari ne sono di più, o magari è un'ondata. Poi devi avere dei nemici che hanno un design che li rende leggibili. Quindi questo è un nemico che è grosso, è pesante e lento. Questo è un nemico che è veloce, è rapido, si muove velocemente. Questo è un nemico che è qui per fare carne da macello, come Grunt. E devi essere sempre in grado, piano piano, di capire qual è la tattica per leggere e per sconfiggere questi nemici al meglio, velocemente. E quindi abbiamo detto, quindi vabbè, feedback, design dei nemici e dei loro movimenti, design come posso dire, dei vari tipi di danno e di punti deboli e di movimento. Che altro? Adesso abbiamo parlato talmente di tante cose che a qualche punto mi è sfuggito. Oddio. Movimento costante. Secondo me un buon gioco con un buon sistema di combattimento ti costringe a spostarti, secondo me. Cioè, È vero che alcuni giochi tipo Gears of War sei quasi costretto a fermarti e sparare in alcuni momenti, o anche Call of Duty. Considerato, cioè, non puoi creare, non esiste un unico buon sistema di combattimento. Sì, sì, io dico per me, dico secondo me. Ok, no, scusa, mi ero perso questa parte allora. No, dico secondo me, cioè, quello sì, che per me è la capacità di imparare, nel senso di imparare e di sorprenderti, inteso che tu non puoi conoscere un avversario la prima volta che lo vedi, ma devi anche spendere un po' di tempo a imparare, diciamo, quello che può fare, come succede molto spesso in Dark Souls. Se tu quando incontri un nemico nuovo, la paura più grande deriva dal fatto che non hai idea di quello che possa fare questo nemico e non sai bene come schivare i suoi attacchi e come reagire alle sue mosse in combattimento. E poi anche quando pensi di aver imparato tutto, forse ogni tanta volta te lo metti ancora un po' nel esatto. In maniera logica e non come in Dark Souls 2, giusto per giusto per dare un'altra frecciatina. Che poi questo lo dico, adesso mi ha fatto pensare il fatto che voglio essere costretto a spostarmi è perché io non mi voglio spostare, cioè, nel senso, sono pochi i giochi che davvero si concentrano sul tuo essere magari un cecchino, no? Cioè, ci sono pochi giochi che rendono interessante, che rendono anche importante da un punto di vista di trama l'essere a una distanza altissima dal tuo bersaglio. Ci sono, vabbè, giochi tipo Sniper Elite o Zombie Army, salutiamo Sal, che ti costringono, cioè no, che ti costringono, che ti danno strumenti per colpire nemici da lontano e renderli spettacolari, comunque renderli fighi, però sono pochi i giochi che lo trattano come una cosa, come magari il nemico alle porte, cioè come una bellissimo Good Kill film, se volete vederlo, come una cosa importante anche dal punto di vista di trama. E mi piacciono i giochi che ti costringono, anche quando sei un cecchino, poi a spostarti continuamente, a riposizionarti, a dover adattarti a delle cose. E questo un po' entrerà nel discorso che stiamo per fare nella rubrica finale, però vabbè. Altre cose che ti piacciono di un sistema di combattimento che deve avere? Qua parlo principalmente di giochi strategici più a turni. È che molto spesso, ultimamente stanno rimediando, appunto come dicevo con XCOM, che come l'esempio di XCOM, però tipo spesso non sfruttano il sistema delle conseguenze. Alla fine, se vogliamo tirare un'altra frecciatina un po' ai Pokémon, perché il sistema dei Pokémon è stato rivoluzionario, non dire però il sistema dei Pokémon è stato rivoluzionario quando è uscito, però rispetto ad altri giochi, secondo me una delle cose gli ha fatto perdere molto di interesse, almeno da parte mia, è il fatto che non si sia evoluto durante il tempo. C'è rimasto, parlando proprio di Pokémon, l'ironia è che non si è evoluto, è rimasto come quello di base e tutto il sistema delle... Alla fine è così poco inconseguente il sistema di Pokémon. Tu fai una mossa, non c'è molto... Non devi pensare 3 turni in avanti o 4 turni in avanti alla fine. Al massimo un turno in avanti puoi pensare. E basta, Marco, ma faremo un episodio solo sui Pokémon di 1 ora e mezza dove puoi lamentarti tutto il tempo. Secondo me un buon sistema di combattimento è uno di quelli che prende in considerazione le conseguenze di un tuo errore. Cioè non è che poi dico, ok, ho sbagliato questa mossa, vabbè, finito. No, deve essere un errore, te lo può anche... Non dico far pesare, nel senso non è che ti punisce estremamente per un errore, però un tuo errore deve anche andare... può anche andare a modificare tutte le tue mosse successive a un certo punto. Non dico che devono essere irrecuperabili gli errori, ma devono avere delle conseguenze. Ci sta. Volevo un attimo dire che in questo episodio abbiamo lasciato fuori una novità rivoluzionaria, una novità che ha un po' cambiato tutto. In entrambe le categorie che abbiamo detto, e cioè il VR, la realtà virtuale. Ah, ma parleremo Dico solamente che ha cambiato tutto, ne parleremo in dettaglio in un altro episodio dove parleremo di realtà virtuale, perché è veramente troppo da spacchettare. Assolutamente, mi sa che parlerà più Jacopo in quell'episodio, perché è lui che ha potuto... Ho esperienza diretta adesso. Vabbè, ma in realtà sono cose che sai anche tu, quindi vabbè, ne parleremo comunque. Deve essere interessante da quello che non ha mai veramente provato la realtà virtuale, mettere a confronto quello che non ha mai provato la realtà virtuale con quello che... ce l'ha in casa adesso, per cui... ce l'ho in casa finalmente, esatto. Beh, con questo direi che siamo arrivati al nostro momento preferito, quello che tutti stavano aspettando, vero Salla? E con questo parliamo del momento Kojima. Sigla kept you waiting, huh? In post produzione, ok. Bene, in realtà anche questa settimana parleremo di una cosa che a Kojima non piace tantissimo. Non e cioè il combattimento. Secondo me ci sarebbe da dire tipo i tre stili di combattimento di Kojima che almeno abbiamo visto finora, perché tecnicamente, almeno di nuovo secondo mia opinione, sono stati più tre. Ci sono stati quelli dei primi Metal Gear Solid, cioè da tipo Metal Gear Solid 1 al 4. Forse più 3, che fino a, forse il 4 era già nella seconda parte, leggermente. Poi c'è stato quelli appunto dal 4 fino a Metal Gear Solid 5, quindi alla fine 4, Peace Walker e 5, in cui, e poi alla fine c'era il sistema di combattimento di Death Stranding. Scusa, mi è uscita un attimo, scusa. Allora, secondo me nei primissimi Metal Gear Solid... il sistema di combattimento che non era inesistente, però non, appunto, come dicevamo prima, non voleva essere quella la parte principale del gioco. Cioè, non voleva essere quello l'obiettivo del gioco. Quando ci si andava a chiedere a cosa serve il sistema di combattimento in Metal Gear Solid, alla fine non a tantissimo, perché la maggior parte del gioco l'idea era di farlo in stealth, di sopprimere i nemici in maniera anonima, senza farsi vedere, eccetera, eccetera. Usare il sistema di combattimento solo un po' come ultima risorsa, a parte esatto. Magari per alcune, per le boss fight, in cui il sistema di combattimento era più necessario perché proprio per storia il nemico lo dovevi uccidere in qualche modo, e quindi... In qualche modo però, potevi scegliere spesso. In qualche modo, infatti questo è da dire, non era anche lì, in questo caso, non sempre era necessario un assalto frontale del boss, del... non quel boss, ma dico il boss in generale, giusto per... della saga, ma dicevo, non sempre era necessario un assalto frontale del nemico, ma bastava anche a volte un approccio più stealth, strategico. Sì, e quindi okay. Con un gadget. Esatto, e quindi ok, nel senso il combattimento c'era, era un potevi sparare con delle armi, vari tipi di armamenti, vari tipi di granate... C'erano delle meccaniche un po' anche lì collegate allo stealth, in cui alcune armi potevano disattivare dispositivi di sicurezza, eccetera, eccetera. E... questo magari, visto che ci siamo più concentrati sulla parte di basso livello in questo episodio, ne parleremo, in un altro episodio. Diciamo era abbastanza fuffa il sistema di combattimento nei primi Metal Gear. Ecco, secondo me c'è stata un redesign, una bella evoluzione del sistema di combattimento, soprattutto negli ultimi tre, intesi come Metal Gear Solid, già 4 secondo me, ma questo potrebbero esserci opinioni contrastanti, i Peace Walker e Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Secondo me Phantom Pain è forse è quello dove davvero si è realizzata la visione. Può esserci, ci sta. Ed è appunto questo sistema di combattimento che veniva per una volta completamente, diciamo, slegato da tutta l'atmosfera, da tutta la storia di questi giochi, e prendeva un aspetto più individuale in questo mondo di gioco. Cioè, nel senso che tu vivevi la storia di Snake, del protagonista, come l'aveva scritta Kojima. Però il modo in cui tu affrontavi la maggior parte, magari alcune missioni erano più guidate, più, come dire, di storia, quindi dovevi affrontarle in un certo modo, ma la maggior parte delle missioni eri tu a decidere lo stile in il modo in cui volevi affrontarle, e quindi il metodo di combattimento doveva essere, cioè se tu appunto decidevi di avere un approccio più ostile, più sì, più ostile verso il nemico, cioè più combattimento e meno stealth, proprio per questo il sistema di combattimento doveva essere un po' più succoso, un po' più interessante, e penso che, e poi spero concordi con me, che Kojima ci sia riuscito abbastanza in questo caso. Sì, ha anche senso nella storia il perché è più personale il tuo stile, è più tuo, è più vario. Quindi sì, sono molto d'accordo. È bello che tu possa affrontare una situazione, un campo, in tantissimi modi, non tutti stealth, anche più modi di rovinare la vita alle guardie. Tipo, vi invito a guardare un video di Danke, si chiama, è uno youtuber che fa dei video un po' costi sui videogiochi, e c'è un video, ci sono due video che ha fatto su Metal Gear Solid 5, dove davvero si diverte tipo a fare, tipo a usare la scatola come slittino per investire le persone, a mettere le persone in fila per dargli un pugno con il pugno razzo, a tipo mettere tutte quante delle esche gonfiabili intorno a un tizio per farlo impazzire. Cioè è proprio divertente, può essere proprio divertente, che è una cosa che non ne sono mai stati in Metal Gear Solid come combattimento. Cioè sì, potevi un po' fottere gli avversari e farli alzare le mani. No, non volevo interrompere. Cioè, in questo caso l'esempio delle conseguenze nel combattimento è appunto il modo in cui i tuoi nemici, che alla fine sono principalmente esseri umani, non ci sono, tra virgolette, mostri o goblin di Metal Gear, appunto gli esseri umani reagiscono alle tue tattiche di combattimento, e reagiscono in modo molto più vario rispetto a quelli dei vecchi videogiochi. E questo ha reso il combattimento molto più interessante. Una cosa pure bella è che se tu eri come me, magari più classico Metal Gear, cioè infiltrazione, stealth, addormentare le guardie che devi addormentare, solamente quelle, alla fine si adattavano. Cioè se tu facevi tanti colpi in testa, le guardie indossavano più elmetti. Vero, è vero, me l'ho dimenticato. Si adattavano a quello che facevi nel tempo, e questo rendeva le cose più interessanti, più complicate, e non lo so, anche i combattimenti purtroppo eri forzato. Come? No, questa era una cosa veramente originale nel sistema di combattimento, che si adattasse, che si evolvesse insieme al tuo stile di gioco. Continua pure. Sì. E no, niente, anche i combattimenti dove eri forzato un po' a combattere, mettiamo così, di conseguenza erano più interessanti di altri, proprio a livello base, a livello proprio di combattimento puro, erano più interessanti di altri Metal Gear, dove alla fine era solamente quasi un puzzle lo scoprire cosa dovessi fare per sconfiggere al meglio un boss a volte. E quindi vabbè, tutto qua. E poi c'è Death Stranding. Che dire? In realtà penso che alla fine, cioè anche qua in questo caso ci dobbiamo chiedere di nuovo a cosa serve il combattimento in Death Stranding, qual è l'obiettivo del combattimento in Death Stranding? Far perdere tempo al giocatore? Ecco, no, secondo me la risposta giusta sarebbe qual è l'obiettivo del combattimento in Death Stranding? Evitarlo il più possibile. Esatto. Cioè, è fatto apposta per essere una rottura di coglioni, e stranamente, secondo me, funziona. Magari in altri giochi è una perdita di tempo obbligatoria, qui è una perdita di tempo perché devi evitarla. Perché cioè, il punto è che deve essere non necessario, deve essere pericoloso. Cioè, la cosa bella è che in Death Stranding, senza spoilerare nulla, se uccidi qualcuno, se uccidi qualcuno, quel qualcuno diventa un cadavere, e quel cadavere può esplodere, poi crea un cratere che ti rovina. Sì, stavo per dire, ma ci sta. Quindi, cioè, è proprio dannoso per tutte le strutture degli altri giocatori, che poi non vedi più, che ti aiutano a andare dove devi andare. Quindi, cioè, secondo me, a me è piaciuto il fatto che fosse brutto. Scusami, non dicevo, secondo me la cosa interessante da vedere qua è come il combattimento in questo caso è stato sviluppato pensando, diciamo, a tutto il resto, a più a quello che c'è intorno al combattimento che al combattimento stesso, perché alla fine il combattimento non è che sia sto granché, cioè spari, puoi picchiare i nemici, ci sono le stun gun, va bene, ma non è che sia così... No, alto. No, vabbè, è banalissimo, cioè proprio, è pure facile, è solo noioso. È banale, non è avvincente, non c'è... E come diceva Jacopo, appunto, poco divertente combattere, però è più interessante pensare a tutte le conseguenze che ci sarebbero dovute a un combattimento piuttosto che al combattimento stesso. E quindi, di nuovo, in maniera strana, ma ancora tanto di cappello, così. E quindi... Io penso di aver detto tutto. Tu vuoi aggiungere qualcosa? O... No, sono a posto. Noi siamo a posto. Resta che salutarvi. Speriamo che questo nono episodio vi sia piaciuto e alla prossima. Continuate a giocare. Ciao ciao.